Italia in controluce. Buona mattina, oggi è l'8 di luglio, vi parla Daniele Biacchesi su Italia in controluce. Questa è la battaglia del giudice emerito della Suprema Corte Costituzionale Romano De Grazia e l'applicazione della cosiddetta legge Lazzati. Questa è una legge che vieta la propaganda elettorale ai sorvegliati speciali, che punisce anche i candidati che accettano in qualche modo il sostegno delle cosche mafiose. Elisabetta Ranieri ha intervistato per noi Romano De Grazia. È già molto il fatto che è stato introdotto il divieto di attività di propaganda elettorale. Perché i boss, i malavitosi, i sottoposti alla misura della sorveglianza speciale potrebbero fare tranquillamente, andare in giro a raccogliere il consenso. E il paradosso sa qual è? Che io, sorvegliato speciale, non posso votare, non posso dare il mio voto, mentre se ne do 1000 voti, questo mi è consentito. Perché 1000 voti significa svolgere attività di propaganda elettorale, significa raccogliere. Il mio voto personale però no. E questo in uno stato di diritto è semplicemente paradossale, anacronistico. E noi che andiamo dicendo da 18 anni, questa che è una verità così elementare, così banale, così solare... Abbiamo trovato lungo il nostro cammino e troviamo purtroppo atteggiamenti di malafede o atteggiamenti dettati da mera stupidità. Lui è Romano De Grazia, ex giudice emerito della Suprema Corte di Cassazione e autore di una legge, quella Lazzati, che vieta la propaganda elettorale alle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, i cui effetti positivi si sono già riscontrati nelle indagini fatte a Rosarno durante il turno elettorale straordinario dello scorso novembre. Era il 1993, quando il giudice De Grazia andò a San Luca, patria della famiglia Pelle, a presentare questo suo disegno legge, sfidando i mafiosi locali e non solo. Da allora sono passati 18 anni, 18 anni in cui il giudice ha combattuto, ha bussato, come lui stesso racconta, porta a porta, ed alla fine ha vinto la sua battaglia. Ha visto approvare lo scorso 13 ottobre il suo disegno legge, che prende il nome dal centro studi Lazzati di Lamezia Terme, da lui stesso fondato. Quella di De Grazia è stata definita da tutti una battaglia lunga e costante, una battaglia spesso paragonata alle imprese di Don Chisciotte contro i mulini a vento, perché in pochi credevano che questo giudice dal voto pulito potesse resistere così tenacemente, fino ad arrivare alla vittoria. Una vittoria che ha visto esultare i politici calabresi, persino quelli che nel momento di votare in Parlamento il disegno legge si sono defilati, ed in quel 13 ottobre il loro voto è venuto a mancare nel momento decisivo. Ha vinto la sua battaglia il giudice, in un paese tanto bello quanto difficile come lo è la Calabria. E questo risultato non giova solo alla terra dell'Andrangheta, perché di collusione ormai tra il potere mafioso e la politica se ne parla dovunque. A Milano come a Torino, a Livorno come a Genova. Se ne parla dove c'è denaro, dove c'è ricchezza. Il problema è che dall'entrata in vigore della legge sugli scioglimenti del Consiglio Comunale, dei Consigli Comunali, risultano sciolte per condizionamento mafioso ben 196 comuni, 85 in Campania. E di questo fenomeno non mi risulta che ne abbia parlato Bassolino, a Iervolino, come il problema dei comuni, 49 comuni sciolti in Sicilia, 47 in Calabria, dovrebbero fare riflettere, e anche questa legislazione da noi proposta ha l'ulteriore vantaggio che evita, previene gli scioglimenti dei consigli comunali, che sono provvedimenti generalizzate per questo iniqui, perché penalizzano l'immagine della comunità di appartenenza e penalizzano buoni e cattivi. Con questa legge si potrebbe intervenire efficacemente al momento elettorale e si eviterebbe quelle processioni a casa di Pelle, come è stato riscontrato, effettuata da candidati di destra e di sinistra, perché purtroppo questa cancrena riguarda, questa metastasi riguarda tutta la... I Pelle, ricordiamolo, sì, sono... Pelle a San Luca, in Aspromonte, è il risultato che bussavano candidati di destra e di sinistra, e un consigliere regionale, Zappalà, è stato arrestato. Senza giudice, 17 anni sono tanti, perché ha sentito l'esigenza di fare questo provvedimento? Cos'è proprio che l'ha spinta a fare questo, a creare questo disegno di legge? Che cos'è che non... Cosa mi ha spinto a fare? Perché amo la mia terra, amo il meridione, e allora ho il problema della questione meridionale, è un problema che riguarda tutti, riguardava la mia generazione, riguarda la generazione futura, e per ottenere investimenti nel meridione occorre la restituzione del territorio allo Stato, prima di tutto, che è la madre di tutte le guerre, il ripristino della legalità. E ovviamente con questa metastasi della collusione mafia politica è evidente che non ci può essere prospettiva di sviluppo, salvo a farne tema di parato, a mettersi la maglietta e no alla mafia, io resto in Calabria o a Targa e qui non entro la mafia. Sono tutti espedienti che non risolvono il problema, anzi eludono la risoluzione del problema, e quindi abbiamo ritenuto lottare per questo rimedio giuridico, così che le forze dell'ordine e gli inquirenti, se ne hanno voglia, hanno lo strumento per intervenire nell'immediato. La prima edizione di Italia in Controluce, torniamo oggi 13:30 su Radio 24.